Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Quella di oggi sarà una storia di musica, ma non solo. Sarà la storia di un musicista italiano famosissimo, ma anche di un poeta, di un pittore, di un uomo speciale, di un antidivo che è diventato un grande grazie alla sua capacità di stare vicino alla gente. Era speciale per tutti quelli che l'hanno conosciuto personalmente e attraverso la sua musica. È una storia che ci chiede un ascoltatore del Falco e del Gabbiano, Antonio. Ciao Enrico, sono Antonio Bondavalli da Mantova, agente di commercio. Ti telefonavo perché mi piacerebbe che raccontassi nella tua trasmissione la vita di Augusto D'Oglio, fondatore e leader del gruppo musicale dei Nomadi. E via sognante fra l'oggi e il domani, di cibo vapori, di lusso e falere, e via di facce, di grida, di mani, sarà un grande piacere vedere in futuro da un mondo lontano quaggiù sulla terra una macchia di verde, e sentire il mio cuore che batte più piano e là dentro si perde. Passeggia un cane e appaia al vento un uomo. Bene Antonio, io ti ringrazio, ma non sei l'unico, ce l'hanno chiesto in molti ed è una storia che io racconto con molto piacere, quella di Augusto D'Oglio. È il cofondatore dei Nomadi, è un uomo di musica, un uomo di poesia, di pittura, è figlio di quell'Emilia che alla musica ha dato e continua a dare molto. L'avventura umana di Augusto D'Oglio parte nel 1947 a Novellara, provincia di Reggio Emilia, un piccolo paese di 13.000 abitanti nel cuore della pianura padana. Sono nato il 18 febbraio 1947 a Novellara di Reggio Emilia, nel cuore della notte, mentre Freddo e Brina duellavano con rami secchi di pioppi e tigli. Sono nato al caldo e mi hanno chiamato Augusto come un nonno che non ho mai conosciuto. Il cognome D'Oglio mi è stato dato da un uomo semplice e a suo modo dolce e complice. Dall'età di 16 anni canto in un gruppo che si chiama Nomadi. Scrivo canzoni e giro il mondo. La vita artistica di Augusto comincia, come dice lui stesso, quando è un adolescente, nei primi anni 60. La musica è legata a filo stretto dall'amicizia, perché è da lì che per D'Oglio inizia tutto. Da quando con il suo amico da sempre, Giuseppe Carletti, detto Beppe, tastierista, fonda un gruppo. All'inizio si chiamano i Monelli, non ancora i Nomadi. È un gruppo che fa già sul serio, perché conquista una certa fama a livello locale. Beppe, come inizia l'avventura musicale tra te e Augusto? Dunque, l'avventura musicale tra me e Augusto è iniziata su un palcoscenico, direttamente su un palcoscenico in una balera, insomma, diciamo in un dancing molto chic. Noi suonavamo lì, il chitarrista che era con me allora mi disse: senti, io ci avrei un ragazzo da portare, se lo vuoi sentire. E dico: va bene, portalo pure. Allora noi cominciamo a suonare, poi arriva questo ragazzo che poi era Augusto D'Oglio, viene sul palco, dice: io canterei blues del Mandriano e Viva Balula, giro del Mi, cioè facilissimo. Partiamo e suoniamo queste due canzoni qua. E Augusto pressionò la gente in un modo incredibile, ma veramente, a parte noi sul palco che ci siamo divertiti come dei matti. E la gente rimase veramente impressionata dal suo essere, da questa figura comunque con già qualche pelo già che poi sarebbe diventata barba. E la gente è andata giù di testa. Alla fine di tutto il gestore di questo dancing mi dice: beh Carletti, guarda che se prendi questo ragazzo qua a cantare io ti do un contratto tutti i mesi. Siamo nel 63, i Monelli stanno per diventare i Nomadi. E nei paesi tra Reggio Emilia e Modena stanno fiorendo gruppi musicali, ma in realtà è tutta l'Italia pervasa da una ondata che arriva di riflesso all'Inghilterra, no? sono arrivati i Beatles e poi in Italia in quel momento tutti suonano, tutti vogliono rimuovere i dolori, le difficoltà della Seconda Guerra Mondiale, è arrivato il boom economico, i giovani hanno voglia di raccontarsi, hanno voglia di cantare le loro emozioni, di stare assieme, nascono i gruppi che allora vengono chiamati i complessi. Di lì a poco, insomma, arriveranno dall'Inghilterra i Rocks, che diventeranno virtualmente italiani dal punto di vista operativo, così come i Primitives di Mal e poi i Camaleonti, i Dick Dick, l'Equipe 84, i New Dada e moltissimi altri. Insomma, tutta l'Italia è investita da questa nuova ondata, i complessi. E allora Augusto D'Aolio e Beppe Carletti fondano i Nomadi insieme a Franco Midilli, Leonardo Manfredini, Gualberto Gelmini e Antonio Campari. Il successo dei Nomadi parte dal basso, perché non è ancora l'epoca dei grandi mezzi di comunicazione di massa. La televisione li ospiterà un po' più avanti, li farà crescere di popolarità, però non è ancora quello il punto, perché la TV è un mezzo difficile da raggiungere. Il successo si guadagna sul campo, con tanti concerti, serate dopo serate, coi palchi di quel periodo, quindi palchi delle balere. Sono i posti dove i giovani, spesso accompagnati dai genitori, vanno a ballare, vanno a sentire musica, le ragazze sulle sedie, a bordo pista, di fianco le madri, il ragazzo che se vuole ballare deve trovare il consenso nello sguardo della madre, quindi è ancora quel tipo di Italia così gentile e ingenua. I Nomadi sono i protagonisti di quel momento, perché suonano pezzi loro, ma anche cover di brani di successo in America. In realtà la cosa bella è il fatto che i Nomadi poi siano durati e durino ormai da 50 anni, testimonia questo. Se parti da una situazione del genere, è molto probabile che il tuo successo sarà robusto. Se vieni imposto dalla televisione, sarai l'eroe di una stagione. E per i Nomadi è andata in maniera completamente diversa. Durano da 50 anni. Il loro primo successo è stato la celeberrima, come potete giudicare. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di una rockstar anomala, per il quale la parola rockstar è quasi inappropriata. È uno di noi che è stato con noi e ci ha raccontato. Augusto D'Aolio, un artista a 360 gradi. Siamo arrivati al momento in cui il grande pubblico si sta per accorgere dei Nomadi e di Augusto D'Aolio. Avviene grazie a un film cosiddetto musicarello. Allora, erano quei film che andavano molto in voga negli anni 60, in cui si prendeva una canzone di successo e si costruiva attorno, anche in maniera molto ingenua e affrettata, si costruiva un film. Poi arrivavano anche grandi attori che magari dedicavano 2, 3, 4, 5 giorni alle pose per rendere più nobili quei film che avevano, come dire, contenuti fragili e trame improbabili, ma lo scopo era fare ascoltare la canzone. In questo caso il film è del 66, è un film interpretato da Totò e da Patti Pravo, e i Nomadi appaiono e cantano una cover di cui hanno riscritto il testo. La canzone è The Revolution Kind di Sonny Bono. Il pezzo lo stiamo ascoltando in sottofondo. Spesso accadeva in quegli anni che delle canzoni che arrivavano a successo in realtà erano delle cover, cioè versioni italiane di canzoni inglesi che, non essendoci internet, non avevamo mai ascoltato, quindi erano da tutti i punti di vista nuove. In questa band di capelloni spicca un cantante che è molto diverso dai ragazzi beat di quell'epoca. Intanto ha gli occhiali, degli occhiali da vista con una montatura pronunciata, insomma si notano, ha la barba, è un'immagine un po' alla Cavour, come un po' più da contestatore francese del 68 che non da ragazzino, da bel ragazzino beat come poteva essere Mal. Ha un'aria seria, saggia, eppure anche inaspettatamente spiritoso. I'm glad I'm here just like you. vorremmo presentare insieme ai telespettatori i tuoi amici. Chi sono? Io e Franco. Suona la chitarra. È considerato il più bello dalle fans. Sbagliano. Lui è Bila. Suona la batteria, 11 anni. Lui è Gianni. Suona il basso, è alto. Lui e Beppe. Suona l'organo, 21 anni. Il successo è grande anche perché i Nomadi incarnano la generazione dei capelloni, di quei ragazzi un po' contro che rifiutano il look dei padri e delle madri, e la canzone, come potete giudicare, che abbiamo sentito prima, è un inno contro il perbenismo. La presentano al Cantagiro. Il Cantagiro è un altro evento epico degli anni 60, perché è una trasmissione che porta i cantanti in giro per l'Italia come una corsa ciclistica. Quindi il passaggio del Cantagiro, cioè le macchine scoperte che passano all'interno delle ingenue città che i cantanti non li avevano mai visti, generano tumulti e veramente cambiano il costume del nostro paese. I Nomadi hanno già la fama di gruppo fuori dal comune, anticonformista, e infatti un giornalista del calibro di Ugo Gregoretti li racconta così al pubblico. I capelloni più intellettuali, il capo del complesso dei Nomadi, che sembra un profeta della Bibbia. Vuol dire qualcosa di profetico? Allah. Bene, Allah non c'entra niente con la Bibbia, però. Ancora capelloni, ancora Nomadi. Benissimo, bravi. Come potete giudicare? Augusto Daolio è il frontman dei Nomadi e incarna perfettamente il sentimento giovanile di quegli anni. Ha un'aria seria, concentrata, con un carattere accogliente, gentile. Dà credibilità al suo messaggio, che è moderno ma anche contro della band dei Nomadi. È un messaggio che trova una forza ulteriore in un incontro di quelli veramente fondamentali che avviene nella primavera del 66. È un altro ragazzo modenese, è un autore che ha la barba ancora più fitta di quella di Augusto, è un autore che ama stare dietro le quinte ma scrive canzoni, soprattutto è un autore di testi, direi un poeta, Francesco Guccini, che in un certo senso diventa il sesto componente dei Nomadi. Sentiamo da Beppe Carletti come comincia il sodalizio che segnerà la musica italiana. Allora, il sodalizio nasce che il nostro produttore era amico d'infanzia di Francesco. Francesco diede al nostro produttore una musicassetta, allora c'era la musicassetta, ce la fece sentire, a noi piacque tantissimo, insomma, da lì da noi non ci saremo, Dio morto. Il rapporto tra Augusto e Francesco direi che è stato un rapporto tra due persone diversissime l'una dall'altra. Augusto un po' più chiuso rispetto a Francesco, un po' timido. Augusto era timido quando era giù dal palco. Sul palco si trasformava, giù dal palco dava anche l'impressione forse di tirarsela un po', ecco, diciamolo così, ma non era vero, è vero il contrario. E il rapporto con Francesco è stato di una semplicità e di un'onestà da far paura. Quando abbiamo fatto il disco insieme ad un concerto, Augusto intagliava anche, oltre che dipinto, intagliava il legno con degli scalpellini. E Francesco, preso da questa cosa qua, volle gli scalpellini anche lui per mettersi a intagliare il legno insieme ad Augusto. Direi che è stata veramente una cosa veramente bella, che ha diciamo, coronato questa unione incredibile tra due personaggi, penso, unici. Nel mondo che hanno già dentro le notti che dal vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, essere contro o di ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto presarate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Beh, il binomio produce molto, soprattutto cambia gli stilemi della canzone beat degli anni 60, che un po' era ingenuo, oppure era la solita canzone d'amore con la rima cuore amore, e qui invece cambia totalmente la musica, soprattutto cambiano i testi a sfondo sociale, spesso di protesta, e sono dei testi assolutamente in linea con quello che sta avvenendo dall'altra parte dell'oceano, con gente come Bob Dylan. L'intesa è immediata. Arriva una canzone bellissima che si chiama Noi non ci saremo. È una canzone contro la guerra, contro la proliferazione delle armi nucleari nel mondo, che è un incubo collettivo, prefigura uno scenario apocalittico in cui l'uomo ha distrutto se stesso. Ecco, sentite questa canzone dei Nomadi. Con quelle barbe e quei capelli potrebbe sembrare, con un po' di buona volontà, di ascoltare un vaticinio. Vedremo soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un uomo che diventa divo grazie al fatto di essere un antidivo. Stiamo raccontando la storia di un poeta, di un pittore, di un uomo semplice eppure intelligente che cambiò molta parte della storia della musica italiana dagli anni 60 in avanti. Stiamo parlando di Augusto Daolio, leader dei Nomadi. Tra i tanti che ci hanno chiesto di raccontare la storia di questo Emiliano Doc, un ascoltatore confinante, perché è di Mantova, è Antonio. Vorrei che tu parlassi di Augusto Daolio, di cui io sono un grande fan, perché secondo me, oltre che un grande artista, è stato anche un grande personaggio, dotato di una sensibilità straordinaria e che ha rappresentato nel panorama della musica italiana un pezzo molto importante. Lunga e diritta correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva, vicino a lui sorrideva. Il sodalizio Daolio Guccini produce molte canzoni splendide, scomode. Canzone per un'amica, per esempio, parla di un incidente mortale proprio nel momento in cui tutti stanno decantando la nuova autostrada del sole, quindi non viene trasmessa dalla radio e dalla TV per non irritare la società autostrada e non allarmare la gente. Il successo arriva lo stesso. Daolio Guccini hanno già scritto Noi non ci saremo, poi è arrivata Dio è morto, che è un'altra canzone che ebbe una storia complicata, passata dalla Radio Vaticana e censurata dalla RAI per un titolo che poteva mettere in imbarazzo. Invece Dio è morto è una canzone che parla proprio di Dio e di spiritualità e di valori in una maniera altissima e eccelsa. Augusto è spesso tra Roma e Milano, proprio su quella autostrada del sole che è appena stata inaugurata, però non si trasferisce né a Roma né a Milano, perché le sue radici le tiene saldamente legate alla sua terra, all'Emilia, come racconta la sua compagna di una vita, Rosanna Fantuzzi, nel suo libro Le tue parole al vento, edito da Castelvecchi. Augusto ha sempre vissuto il paese e le sue radici con grande senso di appartenenza. Il fatto che non si fosse trasferito in una città come Milano, anche quando per il suo lavoro di musicista sarebbe stato utile, evidenziava la sua voglia di rimanere concretamente attaccato a quei valori, a quell'ingenua realtà quotidiana che solo la provincia in cui si è nati può dare. Quando si partiva per un viaggio, sia di lavoro sia di svago, era bellissimo allontanarsi, ma altrettanto bello era rientrare e ritrovare lì la propria vera e sola identità. Che sapore c'è? Siamo negli anni 70, Francesco Guccini sta andando incontro al suo glorioso destino di cantautore. Anche i Nomadi vanno avanti, cambiano qualche membro originario alla formazione, però Augusto e Beppe Carletti sono sempre un binomio inscindibile. Trovano il grande successo di pubblico, quello anche nazional popolare, con una canzone d'amore che presentano a un disco per l'estate. Si chiama Un pugno di sabbia. È una canzone meno problematica delle precedenti e quindi le viene concesso il palcoscenico televisivo, quello più istituzionale. A presentarli in questo audio d'epoca un giovanissimo Corrado Mantoni. Questi non stanno mai fermi un minuto, sono i Nomadi, deve essere vero. Nomadi, no, continuano a girare, ecco, Nomade? È un nomade. Allora, senta, nomade, ma che niente, se ne va, per piacere. Di dove siete esattamente? Di Modena. I nomadi di Modena, eh? Modena, nomadi. Modena, nomadi in Modena. C'è anche una specie di anagramma, nomade. Eh? Nomade Modena. Vedete, ci hanno insegnato anche qualche cosa di nuovo. La vostra canzone, secondo voi, come dovrebbe classificarsi? Onestà e sincerità, via. Per noi va già bene così. Lei trucca già, lei veste già la mia solitudine. Oggi mi va bene anche lei, senza discutere. Gli anni successivi sono quelli di tanti successi, concerti, sempre sul filo dell'impegno civile e dei contenuti. C'è anche della televisione con trasmissioni musicali, vanno addirittura al Festival di Sanremo e in coppia con Mal cantano una canzone non indimenticabile che si chiama Non dimenticarti di me. Sono anni di consolidamento e poi arriva un grande successo che diventerà uno dei loro manifesti. Io vagabondo, è proprio la natura di Augusto Daolio, quella del vagabondo, del nomade, vive nella sua Emilia, viaggia tutte le volte che può e torna, novello Ulisse. I viaggi raccontati dalla sua Rosanna nel libro che abbiamo citato poco fa, insieme a tratti del suo carattere forse poco attesi per chi vede Augusto sul palco, che ormai ha la barba lunga come un santone, è un aspetto da vecchio saggio, anche se non è vecchio per nulla. Augusto sapeva rendere speciale anche l'azione più semplice, quotidiana, perché aveva quest'anima di bambino che molti non conoscono, che non sospettano nemmeno. Quell'anima leggera che ogni tanto mi torna alla mente e mi fa sbottare in una risata fragorosa in una piazza o in una strada o di fronte a un oggetto che mi appare e che mi ricorda l'uno o l'altro aneddoto. L'etica di Augusto non era un fardello ridondante, era un suo punto di forza, una caratteristica, e ci convivevamo con assoluta tranquillità, anche con ironia, mai con costrizione. È importante che sappiate che Augusto era mille uomini, mille colori e mille sensazioni, e che tutte queste sfaccettature davano vita a un unico grande esemplare. È solo un viaggiatore Augusto Daolio, è un pittore e scultore autodidatta. La pittura e il disegno rappresentano un aspetto importantissimo del suo carattere. In tante immagini lo vediamo con una matita, con un pennello in una mano, la sigaretta nell'altra, e lui comincia a disegnare anche le copertine degli album dei Nomadi. Ed ecco come descriveva lui stesso la sua vita e i suoi istinti artistici. C'è un altro mondo dentro di me che racconto con il disegno e la pittura. Lo faccio da parecchi anni. E alberi, rocce, cieli, lune, ombre e altro ancora popolano questi miei racconti. Ho esposto in giro per l'Italia. Ho illustrato dischi, libri, cartoline, manifesti. Non disegno per riempire un vuoto, ma per vuotare un pieno che è dentro di me e preme. Quando non ho voglia di disegnare, ho voglia di scrivere. Quando non ho voglia di scrivere, non ho voglia di disegnare, ho voglia di viaggiare. Grazie a mia madre per avermi messo al mondo, a mio padre semplice e profondo. Grazie agli amici per la loro comprensione, ai giorni felici della mia generazione. Grazie alle ragazze, a tutte le ragazze. Dagli anni 70 in poi, per due decenni, i Nomadi cambiano spesso formazione, con ingressi e addii. Al fianco di Daolio resta sempre l'amico di una vita, Beppe Carletti. I testi di Augusto diventano sempre più politici, il suo modo di cantare cambia, diventa più intenso, soprattutto dal vivo. E sul palco Daolio è tutt'altro che freddo, come ricorda proprio Beppe Carletti. I Nomadi hanno sempre amato più stare sul palco che stare in sala di registrazione. E questa cosa qua la si sente proprio da Augusto in modo particolare. Mi ricordo che quando andavamo in sala di incisione non vedevamo l'ora di finire per andare a casa, invece quando andavamo sul palco Augusto non finiva mai, perché quello era il suo habitat. Il palco Augusto era la sua vita. Vorrei aggiungere una cosa, se è possibile e se è giusto dirlo. Mi ricordo quando stava male l'ultimo anno, che purtroppo dopo se ne andò, nonostante stesse male, forte dolore alla testa, lui amava stare sul palco, e quando era sul palco diceva che tutto passava ed era la cosa bella. Lui lì viveva, insomma, nonostante tutto era il momento più bello, veramente. Era incredibile questa metamorfosi di Augusto di sala di registrazione e sul palco, proprio erano due persone diverse, erano due anime diverse di Augusto. Lo guardai nel fondo dei suoi occhi, lo fissai insistendo sempre più per vedere se c'era colpa o paura, perché, per quale ragione. Eh sì, perché per Augusto il rapporto con i fan è fondamentale, non è per nulla distante, è vicinissimo, i fan sono amici con cui chiacchierare, bere un bicchiere di vino, fare due chiacchiere, passare del tempo, anche se sono migliaia e migliaia di persone. Peraltro è una cosa che continua con i nomadi e il popolo nomadi di oggi. Chiunque è stato a un concerto dei nomadi, e siano in tanti, sa che sto dicendo il vero. È un rapporto di cui si può capire di più anche dal racconto di un aneddoto riportato dalla sua compagna, da Rosanna. Quell'anno eravamo in Sardegna, seduti in un ristorantino tipico. Una giornata bellissima, era estate piena. Ci riconobbero e a un tratto il cameriere ci raggiunse con una bottiglia di vino che non avevamo ordinato. Infatti ci era stata offerta da un tavolo vicino di ragazzi, di fan, che avevano visto Augusto e ci avevano omaggiato del loro buon vino. Augusto non ha mai vissuto il suo essere personaggio pubblico con vanità, questo si sa. Comunque ha sempre dedicato tempo a chi gliene chiedeva, si è sempre fermato a salutare, ringraziare e firmare autografi e chiacchierare in assoluta tranquillità. Augusto era l'antidivo per eccellenza, era l'uomo della strada. Omaggiarlo di una bottiglia di vino voleva dire averlo capito. Ne fu felice e si alzò subito per salutarli e ringraziarli. Si scambiarono qualche gesto da un lato all'altro della sala, si capirono. E Augusto fece il loro cenno che ci saremmo potuti trovare al bancone per bere assieme un caffè. Ma noi, occhi chiusi, guai. E quasi sempre Augusto, quando faceva gli autografi, aggiungeva un disegnino stilizzato di se stesso, che lui faceva molto velocemente e molto bene. Chi ha l'autografo di Augusto se lo tenga stretto. I fan di Da Olio e dei Nomadi non sono solo quelli che sono cresciuti con le loro canzoni dagli anni 60 in poi, ma anche tanti ragazzi che nei primi anni 90 cominciano a comprare album come Gente come noi, la raccolta di successi. La raccolta si chiama Ma noi no, è arrivata a 5 dischi di platino, perché Augusto non smette di parlare ai giovani e quindi i genitori portano i figli e i figli portano i figli. I valori sono universali, se li si sa raccontare sono senza tempo. Ecco come lo spiega Augusto stesso. Io credo che in generale i grandi sentimenti dell'uomo rimangano intatti, siano sempre gli stessi, cioè il meccanismo che muove le passioni sia lo stesso identico 50 anni fa, 100 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, oggi, domani, siano gli stessi. Cambiano alcuni moduli di espressione, cambia un po' il linguaggio per poter raccontare queste passioni. Però essere musicista, essere cantante, essere scrittore di canzoni vuol dire anche essere disposti a imparare un linguaggio nuovo per arrivare poi a cantare le passioni dei giovani. I giovani, dicevo, sono uguali, sono rompiscatole, sono presenti, sono vitali, sono un po' la spina del fianco della vita in generale, sono un riferimento, sono quelli che ti fanno tenerezza perché devono crescere. In fondo è un po' come rivedersi un'altra volta allo specchio, siamo noi giovani ancora con tutto quello che comporta essere giovani. E poi è bellissimo perché i giovani ti regalano veramente molto entusiasmo nei concerti, fuori, ti sentono uno dei loro. Gli aironi neri attraversano il cielo, Nel 1992 Augusto D'Aolio si ammala, è un cancro ai polmoni molto aggressivo. A maggio di quell'anno muore in un incidente stradale Dante Pergreffi, che era il bassista che nell'84 aveva sostituito il mitico Umberto Maggi. È un anno tremendo per i Nomadi. Nonostante tutto, Augusto va avanti e sono in giro per le piazze i Nomadi, feste dell'unità, decine di concerti, apparizioni TV. Tra la primavera e l'estate del 92 i live sono una sessantina. Cantare sul palco, come dice lo stesso Augusto, è l'unica medicina possibile. Però a agosto gli impegni vengono annullati perché Augusto sta troppo male. A me la morte fa una gran paura. Si lasciano troppi sorrisi, troppe mani, troppi occhi. Un vecchio, un bambino si presero per mano e andavano insieme incontro alla sera. Augusto D'Aolio muore nella sua casa di Novellara il 7 ottobre del 1992, a solo 45 anni. Il Corriere della Sera l'indomani titola "Addio Augusto, voce della libertà", e nel suo libro la compagna Rosanna scrive così: comunque sia andata, l'onestà di Augusto è stata sempre la sua vera forza. Professionalmente e artisticamente era severo, attento alla qualità e grande lavoratore. Poi, come per magia, nelle occasioni di svago era l'esatto contrario: infantile, divertente, bambinesco, giocherellone e sempre rigorosamente in cerca di guai. Questa era la storia di un grande uomo che, pur avendo ottenuto tanto successo, è sempre rimasto vicino al suo popolo, ai suoi amici, alle sue radici. Una storia di una persona che ha dato un colpo d'ala molto lungo e ha volato molto in alto. E ringrazio ancora Antonio, che rappresenta tutti quelli che ci hanno chiesto di parlare del grande Augusto D'Aolio. Se avete altre idee, storie sulle quali volete che noi si punti il nostro microfono, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a cercarci un po' dappertutto. Vi abbraccio, ciao, a domani. Mi hai fermato per strada e mi hai chiesto se con te sono stato sincero. Io, facendo la foto, ho risposto che in quello che scrivo c'è molto di vero.